Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Buona domenica a tutti. Buona domenica, buongiorno. Buongiorno, come va? Buongiorno. Come hai dormito stanotte? Non, sono un po' tormentato la notte, la notte di stanotte. Io devo dirti... Il mio pensiero era l'impermanenza. Stanotte? Stanotte. Cioè? Insomma, ne abbiamo parlato una volta in una puntata, no? Ti ricordi? Ricordati, sì, che devi morire. Sì, ho capito, ma stanotte ci pensavi pure. Allora, mi è venuto in mente stanotte, che devo dire, avevo proprio la consapevolezza che purtroppo la vita è breve. Life no, is invece short. Io, come mio solito, mi sono mangiato i funghi, quelli ristoranti. Ah, ecco perché cinese. Io avevo quella sensazione. No, perché ho mangiato i funghi, perché ormai mangio cinese vegetariano, giapponese solo cose vegetariane, che io adoro i funghi, però a un certo punto è iniziato a girarmi la testa, ho detto, calla. No, poi tra l'altro lo sai che tra poco terrò un seminario insieme a Stefano Cattinelli. Noi l'abbiamo sui funghi. Ricordati che devi morire. Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me la segni proprio. Io lo amo, Troisi, un genio, un grande. No, dicevo, terrò un seminario insieme a Stefano Cattinelli sull'accompagnamento empatico alla morte, no, dei nostri amici animali. Perché, vedi, appena cominciamo a parlarne, io vedo anche l'altra parte, cioè, vedi, la morte, vedi, tutti cosa si facciamo. Toccano. In realtà, poi, noi occidentali siamo totalmente impreparati, no, su questa cosa qua. Ah. E tante volte la gente mi scrive e mi dice, Angelo, ma tu che hai già vissuto questa cosa, dammi qualche consiglio, che cosa già posso morto, fare. Quindi mi puoi dire come si fa, che hai già vissuto questa cosa. Ma baffa. Ma dai, amore, ascolta, ti devo confessare una cosa. Ma sto dicendo una cosa importantissima, c'è tanta gente disperata per questa roba ma qua. Ma tu lo sai che tanto scherzando le cose acquistano ancora più valore? Non è che perché io rido una cazzata, sappiatelo, no, voi che ascoltate in radio. Vabbè. Ma va bene. Va bene. Me le serve su un piatto d'argento le battute. Comunque, volevo dirti che stanotte ho fatto uno zanzaricidio. Cioè c'avevo hai preso Cruciani e l'hai sparato in fronte. No! Ma possibile? C'era una zanzara vera e propria in camera che mi ronzava. Sai ho che capito. Poi... Vabbè, allora, parliamo di cose. Ho chiuso la zanzariera, però la zanzara era dentro la zanzariera. Cioè, capite, amici ascoltatori, il dramma della Celentano? No, adesso ve lo spiego perché. Perché io già nata, vi giuro che anche se lo dico così sono seria, già nata una persona attenta e sensibile, che da piccolina detestavo quelli che staccavano... Ecco, appunto, staccavano la coda alle lucertole per vedere la coda andare . O salvavo i vermiciattoli. Io sono sempre stata delle formiche, l'ho trovata affascinante. Vabbè, quindi? Da quando sto con te, che io ti ho detto, no, guarda, però le zanzare, io sono anche goderecia quando tutto. Le ammazzo. E tu mi hai detto, almeno cerca di non essere contenta. Ora, mi dispiace. Ah, finalmente, quindi, dopo 3 anni. No, già da un po', però effettivamente è vero, perché non c'è distinzione fra un moscino, una zanzara e un cane, ovviamente. Nella zanzara, nel suo piccolo, è un essere vivente. Cioè, voglio dire, ci sono delle ovvie distinzioni. Però è un essere vivente anche quello, bisogna rispettare la vita in tutte sì, le sue forme. Sì, certo, poi se devo scegliere fra avere una puntura di zanzara che mi fa allergia e acciaccare la zanzara, acciacco la zanzara. Va bene. Poi sai. Vabbè, adesso che abbiamo, insomma, questa cosa qua. Mangiamo i biscotti. Anzi, no, mangiateli te. Abbiamo già mangiato i biscotti. Guarda che vi punisco con un figotto. Sarà il tormentone della nostra trasmissione. Se qualcuno e se cosa vuoi e se qualcuno farà a un certo punto, secondo me li fanno un pastificio un po' spinto, farà i figotti. Va bene, allora, rimanete con noi perché oggi parleremo di educazione del cane. Avremo una mail di una nostra ascoltatrice che ci chiede a proposito del cane che abbaia. Così via sentirete dicendo. Vaira all'opera. Parleremo della fattoria delle coccole. Parleremo delle sovvenzioni europee, svariate centinaia di milioni di euro che si danno alle corride. Di che cos'altro parleremo? Cioè, parleremo delle api, che addirittura Einstein aveva detto che quando sarà scomparsa l'ultima ape, all'uomo non resterà che vivere altri 4 anni. E vi spiegheremo perché non è una barzelletta, cioè come si dice, una leggenda metropolitana. E del libro Senza parole, di cui intervisteremo l'autore, sì, questo bellissimo libro che incanta e fa capire la condizione animale senza farti vedere quei filmati un po' truccidi che si trovano sì, delle immagini veramente emozionanti, belle. Detto ciò, cosa vuoi da me? Ma tu non volevi leggere l'articolo della fattoria delle coccole? Ma che stamattina ve lo dico pubblicamente, Angelo, vai, una pubblica piazza. Pubblica piazza, cosa pubblica piazza? Parla in barese. Lo sto facendo proprio in questo momento. No, stamattina abbiamo voglia un po' di cazzeggiare. Dai, facciamo tutta una puntata che non diciamo niente, come fanno altre trasmissioni radio. Scriveteci, chiedimi se sono felice. Radio24.it. Se vi sta bene che noi praticamente vi intratteniamo ridendo tra di noi senza dirvi una beata mazza, come fanno in altre trasmissioni radiofoniche, dove non si prende mai posizione, si dice non me ne frega un cazzo. Mi aiutante ha detto la stronzetta giornaliera. Vabbè, stamattina è così, ragazzi, abbiate pazienza, ma dobbiamo riderci su. Però buona parleremo domenica, di cose domenica. Serie. Cosa fa? Buona domenica. Ah, buona domenica. Pausa e subito dopo. Subito dopo che? Cioè... Che ne so, subito dopo. Tomlinson, good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour, Julie. Bonjour. Aus l'antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. Oh, vi aspetto, è dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega! Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Io mi sto sbaciucchiando il mio cagnolino intanto. Ed eccoci in questa puntata del 18 settembre, domenica 18, in compagnia di Rosita Celentano e il suo cane Euphoria qui sul banco. E abbiamo lasciato con a casa Morfin, perché Euphoria è in calore, e Jean-Pierre, i maschietti. Allora, noi quest'estate abbiamo fatto una passeggiata in montagna ad Asiago. Siamo entrati nella nostra libreria preferita, esatto, che si chiama Leggi e Sogni. Sì, dove vi assicuro veramente vendono dei libri che sono delle esperienze emozionali, ma non sì, lo dico sì, per è, dire è veramente. Un'esperienza già della libreria, il fatto di entrare lì dentro, sì, nel modo in cui l'hanno, è una piccola libreria però con i testi curati uno per uno, ci sono molti libri che fanno proprio sognare. E a un certo punto io sono rimasta colpita da una copertina di un libro particolarissima. A un certo punto la Celentano si imbatte in un libro, è attirata dalla sua copertina. Ma io quando mi ero innamorata non era così. E quindi adesso non sei più innamorata? No, lo sono ancora. Lo sono, anzi, di più, amore, di più. Parliamo di cose serie. Sono stata catturata da questa copertina di questo libro, molto particolare, perché c'è una sorta di un corpo di un maiale con le orecchie, però senza la faccia, seduto dentro questo buco nero un essere umano che si sta mangiando un panino, probabilmente con la porchetta, e che guarda la televisione, e il titolo è Senza parole. E sfogliandolo devo dire che è molto incisivo. Cioè, l'avete presente quando si è un po' vittime di quelle bacheche Facebook delle persone molto attive nel campo dell'animalismo, no? Che quindi ti mettono a volte delle immagini così trucide che tu dici, oddio, non farmele vedere per favore. Allora, questo libro qui ti convince, ti fa capire davvero qual è la situazione degli animali senza usare parole. E indovinate un po', grazie alla nostra Rosita Celentano, noi abbiamo con noi l'autore. Sono riuscita a conoscere con grandissimo piacere l'autore di questo libro, che si chiama Roger Olmos. Roger, ci sei? Sì, sono di là. Buongiorno. Ciao Roger. Ciao a tutti. Roger ci parla con un simpaticissimo accento spagnolo, perché tu vivi dove precisamente? Io vivo in un piccolo villaggio che si chiama Calella, è vicino, molto vicino a Barcellona. Barcellona. Io amo la Spagna e anche, come si dice, gli spagnoli, che sono simili agli italiani, ma secondo me siete ancora un pochino più allegri di noi in realtà. Io ho azzardato a mandare una mail l'altro giorno a Roger, perché come ti ho detto già al telefono, ci siamo sentiti qualche giorno fa, sono molto colpita da questo libro, da questi disegni che lasciano veramente, fanno pensare molto e emozionano tanto. Ha avuto tanto successo anche in Spagna questo libro, vero? Sì, veramente, perché è un libro che di là in Spagna è stato distribuito per una fondazione animalista che si chiama FADA, la Fondazione FADA, e hanno molto, come si chiama la gente che è un socio, diciamo in spagnolo, members. Sì, sono sì, i soci. I soci, i membri. E veramente la gente stava guardando qualche cosa così, un libro come questo per mostrare ai bambini soprattutto. Gente che è un pensiero molto animalista e non sanno come mostrarle alle bambini questa cosa che abbiamo con loro, no? Perché tu mi hai detto che come ti è nata l'idea di fare questi disegni, di realizzare questo libro? No, l'idea è venuta dopo vedere molta gente attivista nella strada che fanno le sue... costiamo a vedere davanti un McDonald's, per esempio, la gente con tutte le tavole, tutte queste fotografie, tutte queste documentari sulla internet, che sono molto molto violenti, sono molto reali, e questo abbiamo bisogno di mostrarlo. E io ho pensato di fare un modo differente per arrivare un po' più alla gente che sempre non vuole vedere queste cose. Che la gente molte volte è troppo violento per me, ma non voglio sapere. Allora ho pensato di fare in un modo più, posso dire, poetico, posso dire più suave, ma non meno duro, di mostrare una realtà senza ti fare sentire male a te, come per dirti la tua colpa o questo succede perché tu fa così. No, ho intentato non dire tutte queste cose, solamente con una sola immagine mostrare in diversi aspetti, come l'esperimentazione, come il circo, come il cibo, una situazione che di metterti nella pelle dell'animale. Esatto. Infatti, da questo punto di vista funziona molto. Io ricordo che il libro si chiama Senza parole, edizioni Logos, l'autore è Roger Olmos, con cui stiamo parlando. La cosa molto facile in questo libro, mentre tu lo sfogli, è che ti immedesimi nell'animale, nella situazione dell'animale, senza però avere quel rifiuto, quel rifiuto raccapricciante che c'è con quelle immagini appunto molto dure che circolano magari in rete. Quindi molto poetico, hai ragione tu a definirlo così, e ci si immedesima molto facilmente nella situazione dell'animale. Sei colto da un senso di urgenza, ma è possibile. Anche perché la cosa che colpisce sono gli sguardi che tu hai dipinto di questi animali. Effettivamente in questo libro c'è dentro tutto, perché c'è l'animale sfruttato nei circhi, c'è lo sfruttamento alimentare, guarda, è veramente emozionante, e sono soprattutto gli occhi, come li hai disegnati, che colpiscono. Sì, un sguardo che ti va al cuore diretto quando te lo guarda, no? Voleva fare questo. Sono diversi tempi. Primo faccio come se la camera è molto vicina alla situazione che normalmente noi vediamo. Per esempio, hai una ragazza che sta davanti d'un gran vitrio azzurro, e hai come un gran la punta della bocca del pesce. Sì. E dopo sempre fai questo, vai più lontano e ti mostro la realtà. Che questa grande l'orca. Una orca enorme, che è un animale, per esempio, che è abituato a stare chilometri, milioni di chilometri nel mare, e l'hanno dentro di questa piscina piccola, facendo questa stupida cosa di saltare perché la gente si diverte. E ti farò pensare un po', arrivare un po' che se la propria persona, la stessa persona che pensa, sì, veramente è una stupidità questo. Senti, io ti faccio una domanda, ma immagino già la risposta. Tu cosa ne pensi delle corride? Oh, orribile, questa è la grande vergogna del nostro paese, ma molta gente è in contro di questo. Ogni volta meno e meno gente, solamente la più parte di gente che va a vedere le corride sono le persone piccole di questo piccolo villaggio, molto molto arraigato questa tradizione. E nella grande città la più parte della gente sono dei turisti che vengono un po' con l'agenzia di turismo, che vengono di là, entrano dentro, e molto di questa gente dei turisti vanno fuori piangendo. Vedi? Ma no, questa è una cosa che non mi avevano mai raccontato. Cioè, molti dei turisti guardano questa cosa, poi escono da dove si è tenuta la corrida e piangono. Claro, perché hanno l'immagine dal torero, ma non li mostrano tutto. Non li mostra, per esempio, questa musica che è nella piazza del Toro, la musica tipica, è per occultare il grito, sì, il grito dell'animale. l'animale inizia a fare così, molto forte. È per questo che la musica comincia a fare più forte, più forte, più forte, perché i suoi polmoni iniziano a inondare della sangue e dopo inizia a sacare tutta la sangue. È orribile, è una cosa dantesca. Veramente. Beh, come dice, quindi detto da uno spagnolo, è purtroppo questa delle corride ancora la terribile vergogna della Spagna. Sì, però, cioè, senza però, io spero che, siccome gli spagnoli sono molto più sensibili, la maggior parte, e lì c'è un interesse economico, adesso pensa che nel Parlamento, al Parlamento europeo è stata fatta una proposta di legge, da, in questo caso dal Movimento 5 Stelle, non so se ne hai sentito parlare. Sì, ho sentito. Perché oltretutto la corrida grava molto sulle tasse degli spagnoli, e non so se gli spagnoli questo lo sanno. Oltretutto c'è anche un interesse economico di tutta la nazione che dovrebbe far sì che si interrompa questa... No, io ecco, ho qui un articolo che non so se tu l'avevi messo casualmente, magari volevi parlarne dopo, però dice: ogni anno 130 milioni di fondi europei vanno alle corride, cioè potremmo utilizzarli in istruzione in un altro modo. 130 milioni, accidenti. Più di questo. Più di questo, perché dopo il governo spagnolo anche pone di più dagli imposti di tutte le spagnole. Sì, anche le tasse degli spagnoli. Sì. Senti, Roger, ma c'è... Non destinano niente alle altre cose più importanti. Ma hai molta gente, ha molto interesse economico, di empresario, di businessman, come si dice. Sì, sì. Tutto questo, chi sono aspettando tutto questo dinero, ma veramente niente vede questo, niente vede. Io li do 5 anni di più e questo è finito, sicuro, anche meno. Penso. Bene, bene, sono contenta. Senti, Roger, ma c'è in progetto un altro libro dopo questo successo? Sì, ma è un po' segreto. No, allora non ci dire che cosa. Stiamo facendo un altro libro, un po' con la continuazione di Senza Parole, ma con un altro tema importante, ma anche con gli animali. Non posso dire niente. Non dici niente di più. Poi se ma tu sei vegetariano, vegano? Io sono vegano. Vedi? Vegano, io non mangio niente, né latte né uovo, anche l'abbigliamento è naturale, senza pelle animali. Ma in Spagna sta iniziando, perché qui in Italia stanno iniziando anche i ristoranti a fare il menù vegano, vegetariano, stanno tutti, grazie a Dio, si sta ampliando questa sensibilità verso anche come si dice, l'etica della vita di un animale, no? Ma anche in Spagna. Aspetto che questo è il punto di vista, perché molta gente mi ha detto anche che è una specie di fashion, di moda. Sì, sì. E se è un fashion mi preoccupa, perché può terminare, perché dopo viene un'altra cosa, non so, la paleodieta, certo. Qualche cosa così. No, in un certo modo aspetto che questa cosa rimanda e la gente prende coscienza un po', no? Ma no, sì, ma guarda che anche le mode c'entrano per far diventare più consapevoli le persone. Poi si dovrà consolidare come movimento. Ogni cosa oscilla, ma noi daremo una mano a questa cosa. I tuoi libri lo fanno. Grazie, Roger Olmos. Grazie mille. Se vieni in Italia, fatti sentire, che così ci conosciamo, e se no veniamo noi in Spagna a fare un giro. Sicuro. A Bologna sono quasi tutto, per la fiera dei ragazzi sono di là con la logo sempre. Bene, perfetto, allora magari passiamo. Un abbraccio, buona giornata. Un abbraccio, grazie. Ciao, a voi. Roger. Ciao. Restate con noi. Io, Luigi Pardo, confesso che ho perso il numero delle stagioni. Hai perso il conto perché abbiamo una marea di cose: la Champions League, l'Europa League, il campionato, il calcio internazionale, e la Formula 1 che finisce, il ciclismo che non finisce mai, il MotoGP, il campionato di calcio, tutti i giorni, tutti convocati. Guarda, è facile, tutti i giorni, tutti convocati, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15:30. C'è anche De Luca, è il nostro autore, certamente. Siamo ormai una squadra affiatata, anche se ho perso il conto delle stagioni di tutti. Una squadra fortissimi. Bologna-Venezia, viaggetto romantico, io, lei e il sistema Digital Radio. Sentiamo la radio? Certo, ma ascoltiamola in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto grazie all'autoradio digitale. Niente effetto salto, nemmeno se ti sposti per chilometri, perché il sistema Digital Radio non ti lascia mai. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. E vi ricordo sempre di scriverci, chiedimi se sono felice, @radio24.it, perché come in questo caso poi noi ogni tanto vi telefoniamo a casa. Vi ricordiamo anche la dichiarazione di fedeltà al cane, no, la lettera che deve fare un papà quando adotta un cane per i propri figli, no? Che dopo queste richieste, insomma, ci avete aiutato un po', dobbiamo alla fine trovare un contratto che si possa sottoporre. Sì, esatto, che quando un adolescente vuole a tutti i costi un cane, si deve assumere la responsabilità di accudirlo, di portarlo fuori, insomma, una bella cosa potrebbe venire fuori. Allora, io sono rimasta colpita da una mail che ci ha scritto Barbara, su, e qui entri in gioco tu, caro Angelo, sì, perché ci ha scritto una serie di cose che solo tu ci puoi aiutare a... Ma certamente, mi metto subito a vostra disposizione. E adesso io ho chiesto a Barbara se ci dava il suo numero di telefono, così da fare una chiacchiera con lei e capire qual è il problema che c'ha Gastone, che è un meticcio di 7-8 mesi di taglia medio-piccola. Però siamo in linea con la figlia di Barbara, Silvia. Ci sei, Silvia? Ciao, buongiorno. Silvia, buongiorno, quanti anni hai? 22. Ecco, vedi? 22, perché prima l'abbiamo sentita poco fa, diceva, sembra una 14enne questa ragazza qua. Allora, raccontaci un po' di Gastone. 7-8 mesi ha? Sì, presumibilmente è nato a gennaio, almeno così hanno detto i proprietari da cui l'abbiamo adottato. Sì, quindi è nato in casa? È nato in casa, sì, è nato in un campagna, insomma, in un podere in campagna. E voi l'avete portato via, che aveva quanto? Allora, 3 mesi a quanto dicono i proprietari, poi la veterinaria ci ha detto che secondo lei erano anche un po' meno, però essendo che questi proprietari dovevano in ogni modo liberarsene, era una cucciolata abbastanza grande, abbiamo detto prima che vada al canile. Bene, bene. Allora, abbiamo, visto che ci siamo, Silvia, noi dobbiamo coinvolgere anche chi ci ascolta, no? In modo da dare informazioni utili anche a loro. Allora, qui emergono già due punti importanti. Il primo è dove si va a prendere il cane, no? Quando uno lo va ad adottare. Noi spesso consigliamo i canili, per carità, poi ci sono anche gli allevamenti, però effettivamente il cane che cresce meglio è quello che nasce in famiglia, cioè quando una famiglia ha una cagnolina e rimane incinta, questi cani sono molto fortunati perché sentono già i rumori, i suoni e hanno le esperienze che il cane vivrà da adulto, perché è molto importante, l'altra volta l'abbiamo detto, che fino ai 4 mesi, fino a più o meno quando il cane comincia a perdere i denti da latte, che il cane viva le esperienze che vivrà da adulto, altrimenti poi ne avrà paura. A meno che però questa persona qui, invece, il cane con la mamma, con i cuccioli, invece di tenerli in casa, li tenesse fuori in un recinto. Esatto, li teneva fuori in un recinto. Sì, sull'aia. Ecco, vedi, quindi potrebbe non aver vissuto quella fase di socializzazione di cui parlavamo prima. Però tu nella mail dici che fino da piccolo ha imparato subito a fare i bisogni fuori. Esatto, è stato bravissimo e anche proprio chiedeva quasi da subito di uscire, quindi insomma benissimo. È già stato un passo grande. E poi dal punto di vista proprio del socializzare, sapendo appunto che era così importante, abbiamo subito cercato di portarlo fuori, abbiamo anche dei bambini in famiglia, quindi è stato anche con loro, l'abbiamo portato al parco, quindi con gli altri cani è sempre stato molto, anche troppo affettuoso. Quindi all'inizio lui faceva le feste un po' a tutti, no? Da quello che abbiamo letto. Sì, anche. Fin troppo, tant'è che incontrando persone per strada si piantava perché lo accarezzassero, perché lo salutassero. Ah, vedi, era un Senti, po' amico di te. Ma voi vivete in appartamento o avete un giardino? Sì, in appartamento. E non avete giardino, quindi lo dovete portare fuori voi. Sì, sì. Però a un certo punto il carattere di Gastone è cambiato. È cambiato. Cioè, cos'è che ha cominciato a fare? Ha cominciato a sopportare pochissimo le persone, nel senso, mentre con i cani questo rapporto si è accentuato, nel senso, sì, con le persone non si riesce a farlo legare, tant'è che per strada non posso neanche salutare dei conoscenti, o se qualcuno le fa festa, lo saluta, inizia ad abbaiare finché non rientriamo in casa. Ecco, vedi, la cosa qui che colpisce sempre è il cambiamento, cioè come passa un cane da essere così festoso invece adesso addirittura a rifiutare, abbaiare. Ho letto addirittura che lui abbaia anche quando in casa si sente rumori fuori, no? Sì, sì. Ecco, questo cambiamento in quanto tempo l'avete visto? Perché spesso non ci si fa molto caso. Di pochissimo, nel giro di forse una settimana. Ecco, vedi. Due. E in che età aveva il cane quando è cambiato così? Allora, sarà già più di un mese. Ok, quindi ne ha 6-7. Quindi coincide con la fase della pubertà, che è particolare. Mm. Quindi adesso c'è un cambiamento ormonale molto forte, questo potrebbe aver inciso, no? Però in una settimana è veramente poco, quindi quello, il sospetto che può venire a una persona che si occupa di comportamento è un evento, qualcosa che possa aver cambiato la prospettiva, no? Che cosa sono questi esseri umani, perché mi succede questo, perché una settimana è veramente poco. Voi siete sempre sicuri, siete sempre stati col cane? Cioè, tu dici, tu resti dire, Angelo, non è che magari a loro sembra di aver fatto la vita di sempre, ma è successo qualcosa, sì, che a lui gli ha fatto. Non so, un dog sitter, un cane lasciato da un parente, non so, un petardo scoppiato mentre il cane si faceva carico. Adesso non so che cosa potrebbe. Questa è una delle ipotesi, c'è ovviamente. Stato, no? C'è stato mesi fa, forse appunto un mesetto e mezzo fa, ci fu una scossa di terremoto lieve, insomma, nella nostra città. Però insomma fu avvertita, tant'è che poi mia madre scese in strada con il cane, sì. Però non sembrava, nel senso, l'unico ad averla avvertito sembrava il gatto, però evidentemente questo un po' scombussolamento, noi a volte colleghiamo, diciamo, questo cambiamento, ecco, a quell'evento, vedi, lì. Vedi, questo potrebbe essere, cioè, certo, sono, sì, delle ipotesi, no? Allora, la cosa importante adesso, senza voler fare una cosiddetta anamnesi, no? Quando uno va da un professionista si fa questo, cioè si fa una sorta di raccolta di memorie per capire che cosa precisamente è il cane, no? Dalla quale poi deriva l'approccio al problema, no? Mm-hmm. Perché a seconda della causa, prima infatti dicevamo, erano due le cose importanti emerse prima, una è dove è cresciuto il cane, l'altro è che minimo 8 settimane deve restare con la mamma, no? La mamma cane. Però al di là di questo, qualche consiglio che noi possiamo dare, visto che la causa potrebbe essere o un trauma oppure addirittura una genetica, insomma, ci può essere che a un certo punto nel suo programma genetico lui debba sviluppare questa cosa qua. Difficile poi per un cane, è un cane da caccia, no? Capito bene? No, meticcio. Ah, meticcio. È un meticcio, sì, però molto adora rincorrere, insomma, anche per esempio con il gatto a... Sì, perché caccia, quello sì, possono, sì. Sono un po' tutti cani predatori, no? No, i cani da caccia invece hanno un'indole spesso molto gioviale, no? Con le persone, mentre sono dei predatori con gli animali, no? Con gli altri animali. Vabbè, ma in questo caso, senza sapere che cosa gli è successo, che gli ha creato questo cambiamento in una settimana, che cos'è che si può fare? Allora, che cos'è che si può fare? Innanzitutto la cosa migliore sarebbe poi, come diciamo sempre, rivolgersi ad un professionista per andare a tracciare bene che cos'è che è successo e quindi svilupparlo meglio questo problema. Però grosso modo, se lui abbaia, per esempio in casa si mette ad abbaiare, i rumori esterni, via dicendo, una delle cose che si può fare è frapporsi fra lui e la fonte del rumore. Quindi se il rumore per esempio viene dalla finestra, il cane abbaia in direzione della finestra, io mi metto fra lui e la finestra e guardo il cane come per dirgli stop, sta cosa qua non mi piace. Oppure l'altra cosa che posso fare come alternativa, e funziona tanto con i cani, non so se ti ricordi, a Word di Ghiera con lui l'abbiamo fatto spesso, è chiamare il cane e dirgli qualcosa come del tipo: guarda che è tutto ok, me ne sono accorto che c'è qualcuno che sta passando, no? Quindi io mi ricordo Morfin e dicevo: Morfin, tutto ok, a posto, con questa voce gentile. Esatto. Il cane cominciava a comprendere che ok, se ne sono accorti ed è tutto ok, non c'è nulla di spaventoso. Quindi dovete provare un po' con dei tentativi per capire che cosa che funziona meglio. La tecnica mia preferita è la seconda, perché preoccupa meno il cane, no? Rispetto a quando tu ti frapponi tra lui, sì, perché le cose. Infatti se corriamo verso la fonte del uh-huh. rumore, perché magari va verso la porta uh-huh. per abbaiare, per spostarlo, insomma, lui è in quel momento lì che abbaia di più. Però la tecnica delle ultime settimane che abbiamo sviluppato è uno zitto premiato con un croccantino, che in questo modo attenua, diciamo, un abbaio che prima durava minuti, si ferma subito. Provate, testate. Questa potrebbe avere la controindicazione che il cane comincia poi ad abbaiare per poter avere il biscottino, sì. No? Sì. Quindi tutte le volte con un croccantino vi spacca le scatole abbaiando come un pazzo. No, qua invece parte. La cosa che bisogna assolutamente fare è far recuperare l'idea che il cane ha buona delle persone, no? Infatti. Quindi questa è la chiave di tutto. Lui probabilmente sarà un cane reattivo, piuttosto vigile, no? Queste cose qua, quindi questo si può mediare con una calma, un programma antistress e via dicendo, ma la cosa più importante è poi a un certo punto che lui dica: le persone sono amiche, gli esseri umani sono amici, e quindi questo lo si può fare con un programma di recupero tale per esempio con il gioco, con avvicinamenti progressivi. È necessario però che in questo vi segua un esperto, perché in quel processo lì non è soltanto quello che fai quello che conta, che conterà per un 10%, ma è come lo fai, cioè la tua disposizione d'animo, il modo in cui tu gesticoli, se stringi le distanze o ti allontani, in che modo parli al cane. Tutte queste cose qua vanno imparate, come quando si impara ad andare a cavallo, no? Che uno può dire vabbè, te devi mettere in sella e non so, tirare le redini e stringere le gambe, ok, ma è tutt'altra cosa quando tu ci vai su, no? E hai un istruttore che ti dice come fare. È la stessa cosa è col cane, quindi insomma rivolgetevi, io parlo per tutti e non soltanto per Silvia e Barbara, agli educatori cinofili che vi possono dare una mano molto più grossa rispetto, Silvia, a quella che sto dando io adesso. Se volete avere lo stesso stile di metodi gentili di Angelo, andate sul suo sito Think Dog e c'è la mappa di tutti gli educatori che si sono formati con lui. Ma volevo sapere cosa fa durante il giorno il cane, chi è che sta in casa con lui? Allora, lui la mattina sta da solo perché non c'è nessuno, però poi nel pomeriggio sta molto fuori perché mia madre, insomma, quando, qualsiasi commissione, qualsiasi, addirittura lo portiamo al supermercato che hanno il carrello. Quello apposta per insomma. I cani? Sì, sì. Beh, fantastico. Quindi, insomma, scusa, dov'è che stai tu? Dov'è che abiti tu? Siamo in Toscana, Volterra, una cittadina. Allora, grande Volterra che ha fatto i carrelli della spesa per portare dentro i cani, tanto oramai i bambini. Ma ho capito bene, sono dei carrelli apposta, sì, per portare dentro, sì, i cani, o sono, sì, quelli, sì, per. Sono fatti apposta, sì, sì. Fantastico. Quindi la mamma se lo porta quando va a fare la spesa perché mette il cane nel carrello. Fantastico. No, attenzione, perché se il cane ha paura degli esseri umani, questo continuo, no, mettere a contatto il cane con gli esseri umani potrebbe peggiorare le cose. Ecco. Quindi, ecco, attenzione a questo. No, farlo magari per gradi. Comunque, senti, sì, grazie della mail. Speriamo, grazie, che insomma, intanto questi consigli. Non è facile dare consigli via radio per aiutare a questi problemi del cane. Però ci sono degli educatori bravi, come ti dicevo, se lì in zona vostra, magari se vai sulla mappa. Ma se tutti molto curiosi, no, di come si aiutano i cani, insomma, speriamo di aver dato qualche input, aver lanciato qualche seme. Va bene? Va benissimo, grazie. Ciao, grazie, Silvia, a te, Silvia. Anche la mamma e Gastone. Carezze a Gastone. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. E noi ci risentiamo fra pochissimo. Io vorrei un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. E rieccoci, siamo in chiusura. Ma e cosa fai con una cuffia sola? Sì, volevo identificarmi in un DJ e quindi volevo fare ma va come sei reagendo. Allora, dicevamo, siamo in chiusura, abbiamo da darvi alcune notizie, per cui riprendiamo la nostra consueta abitudine del GR a quattro zampe. Notizie a quattro zampe. Oh. Si è capito che era quattro zampe, no? che ne so, magari era due zampe di gallina. Allora, prima notizia, Celentano, ci racconti. C'è una notizia molto seria, abbastanza inquietante, perché si attribuisce per esempio ad Einstein un'affermazione legata alla scomparsa delle api, che sembra che sia stato detto che quando non ci sarà più l'ultima ape, a noi uomini resterà da vivere solamente 4 anni. Cioè Einstein ha detto così? Vabbè, così dicono, adesso indipendentemente che l'abbia detto Einstein. Però saggia frase, insomma. Saggissima frase, ma indipendentemente che l'abbia detto Einstein, la verità è un'altra ed è molto drammatica. Le api stanno scomparendo. Il fatto che scompaiano le api, come diverse volte mi è capitato anche di dire, no? Se dovesse scomparire l'essere umano dall'ecosistema, il mondo andrebbe avanti ugualmente. Se scomparissero invece le api, noi non smettiamo di vivere. Ma infatti, cioè, chi ci sta ascoltando si dirà: vabbè, scompaiono le api, faremo a meno del miele. Esatto, ma non è solo quello, cioè il miele è una cosa che fanno, ma la cosa più importante è che loro fanno l'impollinazione di tantissime specie di frutti, per esempio, che sono importantissime per la nostra salute, la nostra sopravvivenza, di frutta, di fiori, di verdura, e sembra che Innanzitutto hanno scoperto che le api non apprezzano per esempio i campi di OGM, perché non solo li evitano accuratamente, ma addirittura le prime che si accorgono che in qualche campo ci sono gli OGM avvisano le altre api che non sono, che non hanno ancora sorvolato la zona, in modo che non vanno più lì. Ah, figurati. Quindi non gli piacciono le piante geneticamente modificate. Esatto, ma non le riconoscono proprio subito e non le freghi, quindi altro genio, veramente rispetto, mi inchino alle api. Ma sembra che una delle cose che le minacci di più, purtroppo, siano le onde elettromagnetiche dei nostri cellulari, che causano una cosa allucinante, perché loro, quando ci sono i ripetitori, a loro crea una gli crea una tale confusione, e queste tutte nell'orientamento nell'orientamento non riescono più a tornare al loro alveare. Non riescono più a tornare lì, quindi si perdono, cioè come se avessero un improvviso. Pensa, sai che le api hanno delle facoltà cognitive particolari. Loro hanno per esempio delle rappresentazioni mentali del territorio, ciò che prima non si sapeva. E immagina che quando un'ape torna all'alveare, a seconda dell'inclinazione del sole, e fanno una danza a forma di otto, non so se l'hai mai vista, a seconda di quanto è inclinato questo otto, loro dicono alle altre api dove hanno trovato il polline. No, favolose. Purtroppo pensa che questo problema dei telefonini viene chiamato Colony Collapse Disorder, che provoca la morte di questi insetti, fra l'altro lontano da casa. Ma ci saranno i pesticidi anche. Ci sono i pesticidi, ovviamente. Cambiamenti climatici. Sì, ci sono i pesticidi. Derivanti da... Ma Peter, gli dai tu una testata ad Angelo Santiro? Ma dai, era giusto. Dai. Allora, la cosa che bisogna sapere importante è questa: le api, l'impollinazione è essenziale per kiwi, noci brasiliane, angurie, zucche, zucchine, le noci di macadamia, i maracuja, il cacao, la vaniglia, i mirtilli, le more, i lamponi, le pere, le pesche, le mandorle, le ciliegie, le amarene, le albicocche, l'avocado, i mango, le mele, il coriandolo, il cetriolo, le albicocche. Comunque non esiste alternativa all'impollinazione di questi insetti, ragazzi, veramente, perché non penso proprio che ci si che i nostri grandi economisti, i business managers e i pianificatori dello sviluppo saltino da una pianta all'altra per trasportare il polline. Scusa un attimo, mi interrompa, perché la cosa drammatica è che in Cina, che si sono già estinte le api, ci sono gli apicoltori che vanno mano a mano coi pennelli a cercare... Non gli apicoltori, gli agricoltori. Sì, di braccianti agricoli. Un sacco di braccianti agricoli. Loro a fare il lavoro delle api. Sì, salgono sugli alberi per fare il lavoro delle api, che ragazzi, veramente è una roba allucinante. A parte che un'ape fa il lavoro di non so quante centinaia di esseri umani, per esempio, quindi ha voglia. Sembra che ogni giorno in America sia praticamente per le api una sorta di 11 settembre. Volevo dire solamente questa cosa, poi dici le tue cose che sicuramente sono meno importanti delle mie. No, invece io leggevo che la Germania ha addirittura proibito 8 pesticidi, ritenuti dannosi per le api dopo una moria verificatasi in concomitanza con la semina del mais. Pensa a te. Perché il problema non è solamente i pesticidi e i cellulari che li creano confusione, ma c'è anche il cambiamento climatico, l'inasprimento delle infezioni da virus e dell'inquinamento da fitofarmaci. Cioè tutte queste cose messe insieme, ragazzi, fanno scomparire le api. Bisogna fare qualcosa. Cioè, per fare qualcosa, tra l'altro, chi è a casa può comprare prodotti dai negozi di articoli biologici, perché sono senza, non usano pesticidi, non usano OGM. Insomma, oggi anche nei supermercati abbiamo i nostri reparti di senza OGM, biologici, eccetera, eccetera. Ecco, comprare in quei settori può aiutare le api, e anche comprare il miele vero, perché poi anche il miele si può contraffare. Cioè, oggi sì, purtroppo. Si può contraffare, e poi cercare di capire sempre se l'allevatore, l'apicoltore non sfrutta le api a tal punto che non gliene lascia niente, perché loro il miele lo fanno in realtà per il loro fabbisogno e per quello che serve a loro. Quindi dividiamocelo un po' per noi e un po' lasciamoglielo a loro, esatto. No, che glielo apicoltori dogliamo tutto. Apicoltori seri, insomma, apicoltori consapevoli. Se ne sta parlando molto di questa cosa delle api, della moria delle api, insomma, ci tenevamo a darvi qualche notizia in più. Allora, altra notizia, leggo che il Movimento 5 Stelle ha ottenuto, pensa, dal Parlamento Europeo con 438 voti a favore, 199 contro, una sospensione dei fondi che ogni anno il Parlamento dà alle corride. Beh, qui ci vuole un applauso. Sì, perché pare praticamente che... Sì. Bravi, bravi, bravi Movimento 5 Stelle, anche il nostro applauso. Però insomma, pare che 130 milioni dei fondi della politica agricola comune vadano al sostentamento delle corride. Ma c'è un però, per il quale dobbiamo essere tristi. Oh madonna. Purtroppo la Commissione e il Consiglio, cioè enti non eletti da nessuno, hanno aggiunto al bilancio europeo una nota a pie pagina che sovverte la decisione presa. Ma non ci voglio credere. Praticamente hanno lasciato l'emendamento per non scontrarsi troppo col Parlamento, però hanno detto sotto che le modifiche ai commenti di bilancio non possono andare contro le disposizioni previste dai regolamenti. Ergo, i finanziamenti verranno ancora erogati. Quindi ragazzi, vedete di capire da che parte bisogna stare, se volete stare dalla parte della soluzione o dalla parte del problema. La parte del problema è continuare a sovvenzionare questi massacri gratuiti inutili e vergognosi, e invece la soluzione sarebbe quella di sostenere chi porta avanti queste iniziative. Oh, devo dire, sto attentamente seguendo il Movimento 5 Stelle per quanto riguarda gli animali, e devo dire che si solleva sempre contro le lobby, insomma sono bravi ragazzi. Un motivo in più. Bene ragazzi, anche questa domenica vi abbiamo, spero che vi abbiamo tenuto compagnia, vi abbiamo dato delle notizie che vi possono servire nella vita di tutti i giorni, vi abbiamo anche divertito. Io lo so che vi diverto di più di Angelo, però d'altronde sono io la comica di casa. No, non è vero, Angelo fa molto ridere suo malgrado, sì, quando inciampa, sì, quando fa, sì, delle gaffe, sì, sì. Vabbè, tu, sì, sei quello, vabbè, serio, il professore, sì, di casa, io sono quella grezza. Vabbè, e mo andiamo a casa. Mi ha detto la stronzetta giornaliera. La stronzetta giornaliera. Va bene, allora radioascoltatori, grazie di averci seguito. Scriveteci, chiedimi se sono felice, @radio24.it. Che cacchio ridi? Eh no, niente, volevo salutare tutti. Ciao da Angelo Vaira e da Rosita Celentano. Ciao.